And you don't want no trouble up in here, baby Paul. From the late night drama of the New York streets to the hoods of LA. Real niggas flipping primos beat, put suckers on blast. E allora torniamo in diretta perché siamo in collegamento con Piazzale Clodio, dove si è conclusa l'udienza in cui erano imputati due ragazzi arrestati ieri in seguito alle cariche della polizia al corteo degli studenti medi e universitari in centro. Pronto, ci sentite? Sì. Pronto? Allora, se ci devi dire com'è andata l'udienza. Sono uno degli avvocati che ha fatto la difesa di questi due ragazzi. Intanto diciamo subito che sono liberi. La notizia più importante è che sono liberi, sono già usciti dal tribunale e verranno fatto il processo, sarà fatto il 16 dicembre, quando si deciderà se farlo in quella giornata o dopo, però sono stati liberati sul presupposto che non è stato chiaro il momento del loro arresto, i poliziotti che hanno deposto non sono stati chiari, non si ricordano se hanno picchiato loro o sono stati picchiati, non si ricordano come è avvenuto l'arresto, addirittura uno dei due giovani ha una botta sulla tempia destra e ha detto che ha ricevuto due colpi, urlava dicendo che era stato colpito e il poliziotto non si ricorda neanche che urlava, quindi è stata una farsa veramente. Sono stati arrestati evidentemente solo per dare una lezione dopo che la polizia e i carabinieri si sono trovati a dover fermare un'ondata di giovani che protestavano giustamente per la riforma universitaria. Quindi non ritengo che potrà essere un processo a loro carico così grave, perché non hanno nessuna prova seria, mentre noi abbiamo tutte le testimonianze, abbiamo tutti i filmati che sono stati fatti durante la giornata e siamo sicuri che dovranno essere prosciolti, insomma, dalle le accuse che sono di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Eh sì, diciamo che già le modalità dell'arresto ieri è assolutamente arbitrario, insomma. Però il giudice, di fronte alla testimonianza dei due poliziotti che dicono sì, l'abbiamo arrestati perché ci hanno picchiato, evidentemente in questa fase non può che dire che vabbè, l'avete arrestati, va bene, però l'ha lasciati liberi nonostante l'accusa al pubblico ministero ha chiesto di dargli le firme al commissariato, non sappiamo se quotidiano o settimanali. Comunque il giudice non ha accettato questa richiesta, dicendo appunto che oltre che sono incensurati, in effetti non si è capito, non è stato chiaro quello che è avvenuto durante l'arresto. Va bene, allora ti ringraziamo e ci andiamo a risentire presto. Ciao. Ciao.